Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. La 500 è tecnicamente modernissima, economica e maneggevole. Queste le doti che vi faranno entusiasti della Fiat 500. Guida al piacere di una grande berlina sportiva, Alfa 75. Il massimo comfort di guida con i più avanzati principi di sicurezza attiva. Non è necessario correre ai rally per avere un'automobile tipo rally, ma è interessante avere i vantaggi di un'automobile rally. Fiat 128 Rally. Renault 4 è divertente, Renault 4 è conveniente, Renault 4 è assai capiente, ipiaie! Renault 4, non c'è problema! Io l'altro giorno mi sono stupito, mi sono visto sorpassare da una 112, che chi ha meno di 40 anni nemmeno sa cosa sia. È un'auto considerata molto fighetta, un po' la Smart degli anni 80, qualcosa del genere. Bella, marroncina e caffè latte, proprio come andavano allora. Io pensavo che a guidarla fosse un Umarell, già immaginavo il signore attempato col cappello. No, invece era un elegante signore, normalmente vestito, di età media 30-35 anni. Ho cominciato a guardarmi in giro e sono riapparse delle Fiat 500. Bellissima, il sogno della mia fanciullezza, la 500 con i sedili ribaltabili, luogo di ogni iniziazione per ogni cinquantenne, sessantenne di oggi. Beh, ho visto un sacco di 500 in giro, dico, però vedi, hanno tirato fuori le vecchie 500. Mi è capitato di rivedere anche le 128 Verdoline, che erano delle macchine che prendevamo in giro già al tempo in cui si produssero per la prima volta, assieme alle leggermente più vetuste NSU Prince, che erano delle fantastiche macchinette, che però erano la tipica, almeno nell'Umbria agreste, macchina da pagliaio che veniva comprata, veniva lasciata parcheggiata sempre accanto al pagliaio con una copertina, si pigliava soltanto la domenica per andare alla messa. Quindi capitava che una NSU Prince dopo 15 anni fosse ancora nuova, perfetta, di verniciata di pacca. Perché? Perché era così, non so, si usava così, non so che dirvi. Mi è capitato di vedere un mio collega, il professor Chiappini, girare con una 127 rosso Bordeaux. Ma dico, ma come, dove l'hai trovata? Dice, no, è fantastica, è una macchina bellissima, l'ho comperata, tanto io la uso poco, e mi ha spiegato l'arcano. Dice, io con questa macchina, che sì, è un po' antichetta, però ormai è auto d'epoca, come tale l'ho immatricolata, e quindi pago meno bollo, pago meno tasse, quindi posso avere un'automobile risparmiando su alcune delle spese appunto di mantenimento di un'auto. E allora mi sono fatto una domanda. Il riapparire degli antichi vecchi romantici e fantastici catorci è determinato dal fatto che forse vengono immatricolate come auto d'epoca e quindi si paga meno. Viene a fare una domanda, quindi io per auto d'epoca ho sempre immaginato le Bugatti, le Isotta Fraschini, queste macchine che si vedono attraversare le città nei giorni in cui c'è questa fantastica revocazione dell'auto d'epoca. Pensare che una 128, che era l'auto della mia fanciullezza, che usavano i nonni, i papà, gli zii, una, come è stato detto prima, che ne so, una 128 addirittura in chiave sportiva, c'era un modello coupé, ma allo stesso tempo c'era l'850 coupé, ma ve ne rendete conto, era un 850, era una macchina marroncina, molto usata, capito? Poi c'era una versione sportiva, che era sempre un 850, però era sportiva. Beh, ricordate i vecchi catorci, avete delle storie legate alle antiche macchine che consideriamo ormai sepolte per sempre, se non nella nostra memoria, perché le vediamo riapparire improvvisamente? Perché? Perché forse la crisi ci porta anche questo. Questa è la nuova Volkswagen Golf, più bella, più spaziosa, più contenuta nei consumi, più veloce, più Golf, nuova Golf. Abbiamo migliorato il meglio. Dal più vicino concessionario Volkswagen. Ecco, sono le nuove Ford Escort. Cabriolet, Station Wagon, Turbo. Stanno arrivandomi segnalazioni che confermano la mia intuizione. Ti sei scordato la Simca, mi dice Maurizio. Ah, la Prince, ricorda, negli anni 80 mio babbo l'aveva, un altro babbo aveva una Renault, Non so di che modello, era brutta come la fame col cambio altezza cruscotto. Era l'R4, che domanda. L'R4 e la Dian erano delle macchine molto fighette, perché erano le macchine che usavano i ragazzi più politicamente impegnati. Ne aveva una anche Claudio Baglioni, gialla, orrenda, capito? Claro, questa sorta di cambio che sembrava il manico di un ombrello che veniva fuori da sotto lo sterzo. E per cambiare marcia bisognava tirare a sé questo attrezzo qua, quindi era una macchina molto spartana. Quelli più fighetti l'estate levavano gli sportelli, ci mettevano delle catenelle. Io ho sempre avuto dei maggiolini scassati, ma fino a pochi anni fa avevo il maggiolino. Era bellissimo perché consumava un sacco di benzina, non teneva la strada, ma in realtà si diceva era una macchina tedesca, era robusta. Sì, lo diceva mio padre 50 anni fa. Negli anni 80, fine anni 80, vedere ancora uno che andava in Rai con il maggiolino, forse già allora faceva un po' senso. Riccardo Alemanno, buongiorno. Buongiorno. Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI di Roma. Vediamo se ci riesci in parte a spiegare il motivo che è dietro questa nostra intuizione. L'osservare sempre più vecchi catorci riesumati nelle strade italiane. C'è realmente la possibilità di immatricolarli come auto d'epoca? Beh no, immatricolarli come auto d'epoca non è corretto. Diciamo che un veicolo è d'epoca quando raggiunge una certa anzianità e chiaramente ha dei benefici. Quanti anni più o meno? Dunque, se ha più di 30 anni è automaticamente esente dalla tassa di proprietà, chiamiamola così, tassa di circolazione. Quindi la N su Prince e la 128 ci stanno tutte, la 127 di Chiappini ci stanno tutte. Sì, ci stanno, però chiaramente 30 anni, è chiaro che le norme sono dettate per tutelare le auto d'epoca originali, no, non le auto vecchie, diciamo così, perché le regole, diciamo, sulla tassa automobilistica, sicuramente a fronte del caro costi dell'auto che ha raggiunto nel 2012 una cifra media annuale addirittura di 3.500 euro, quindi tenere un'auto costa così, se ci sono delle tabelle che poi dettagliano tra carburanti, lubrificanti, tasse dell'RC auto, imposte. Comunque deve essere già una macchina con pezzi originali, non catorce, basta. Adesso... Se sono ultra trentennali sono automaticamente esenti dal pagamento del bollo. Se sono ultra ventennali, quindi da 20 a 30 anni, devono essere iscritte a dei registri storici che però hanno dei requisiti molto stringenti, cioè una macchina però deve essere completamente originale, deve essere accettata dai famosi registri di auto storiche, no? E moto storiche. Quindi avere un suo valore storico. Certo, un'auto vecchia che però è tenuta male teoricamente non può essere iscritta a un veicolo, a un registro di auto storica, invece tutela l'originalità dei vecchi. Ma la 127 del professor Chiappini, tanto per fare, è la tipica auto da pagliaio, l'ha comprata un contadino, la tena sempre nella rimessa insieme al mangime per le buche, è nuova di zecca, l'avrà usata 3 volte. Ebbene, se è stata immatricolata da più di 30 anni oppure da più di 20 anni ed è iscritta a un registro storico, probabilmente da più di 30 anni, quindi sì, è automaticamente esentata. È esentata dalla tassa di circolazione, paga solo un costo forfettario, mi pare di, almeno nella regione Lazio, di 29 euro, tra meno di 30 euro. 30 euro di bollo e 135 di assicurazione. Ecco, sì, ci sono infatti delle offerte più convenienti. Però è chiaro che poi c'è tutta quanta una tendenza, per esempio dell'amministrazione comunale di Roma, a limitare poi, per esempio, l'ingresso ai centri storici delle auto vecchie. Eh sì, perché sono euro meno 20, cosa sono? Una cosa terribile. Cioè esce morchia allo stato puro dalla marmitta della 127 di Chiappini. È vero che ci sono delle divergenze interpretative, perché per esempio per i veicoli storici una vecchia delibera del sindaco di Roma aveva concesso l'ingresso al centro storico, una successiva non ha, come dire, modificato quella parte, quindi secondo una certa interpretazione un'auto storica può entrare ancora nel centro storico, chiaramente è, però in ogni caso, ecco, il veicolo inquinante per principio viene un po' osteggiato. Allora fermati un attimo Riccardo, sentiamo subito qualche testimonianza, sì, comproviamo quella che era semplicemente, diciamo, un'osservazione mia. Piero è caduto. Fabio, pronto? Fabio, lei possiede, sì, un'auto catorcio d'epoca? No, mio padre possiede una 131 Super Mirafiori con impianto a gas. Con la bombola sopra il tetto oppure dentro? Con la bombolone dentro al cofanone grande del 131. Perché lei si ricorda che quando arrivò il metano, nei tempi dell'austerità, sì, si mettevano quei due siluri sopra il tetto delle N su Prince, sì, quindi stanno perfetti. Infatti questa macchina praticamente poi la prendevo io quando ero ragazzo, gliela rubavo quando avevo 15-16 anni e andavamo in giro con questo 131 Super Mirafiori, che era praticamente come una croma da adesso, diciamo, no? Sì, più o meno. Blu di velluto, era stupenda praticamente ancora adesso, perché è bianca, Era una di quelle macchine, credo che non avete parlato ancora di queste. Eh no, sto aspettando, ispirazioni dal pubblico. E quest'auto, diciamo, di che anno è? Quindi è immatricolabile come auto d'epoca, sicuramente. Sì, credo ci abbia del 40 anni. Sì, e quindi, è super da auto d'epoca. Se è tenuto originale, lei potrebbe farlo. E poi tra l'altro c'è anche impianto a gas e può andare praticamente nei centri. Sì, gli impianti quelli di una volta con le bombole che pesavano una tonnellata al mezzo. C'è l'impianto rifatto poi. Ah, l'ha rifatto adesso. Prima, quindi c'è l'impianto rifatto, sì. Va bene. Danilo Masomasotti, buongiorno. Buongiorno. Danilo Masotti, fondatore del sito umarehealth.it, fonte di ogni ispirazione, recentemente ha pubblicato Ci meritiamo tutto, a luglio esce un suo saggio, scritto con il sociologo Ivo Germano, intitolato New Gold Dream e altre storie degli anni Ottanta, quindi tu sei nostro consulente. Tra le storie degli anni Ottanta ci sarà senz'altro la conservazione ab libitum delle auto d'epoca. Cosa hai da dire dal tuo punto di vista, un'osservazione sulle tipologie e su i grandi conservatori di auto che noi sappiamo esattamente chi sono? Beh certo, allora sulle tipologie ho consultato l'oracolo Facebook, ho detto da Nicoletti si parla di questo e mi è arrivato di tutto, puoi immaginare. Iniziamo, automobili, Fiat, quindi Fiat siamo in Italia, quindi hanno avuto un discreto successo, abbiamo avuto la 125, 126, 127, 128, poi un vuoto e si è passata alla 131-132. Ah, 132 pure c'era, me la ricordo, è vero, sì. Sì, è arrivata a questo. E ho appena visto un video molto interessante dove c'è un giovane Alessandro Haber che carica una vecchia su un treno, questa vecchia parte, immagino destinazione sud, e però si è dimenticata la valigia. Allora Haber la insegue, pubblicizzata negli 80, con una 131 Mirafiori, e la raggiunge per far vedere le prestazioni di queste auto che soprattutto di grossa cilindrata tipo 131-132 diventavano questi viaggi anche delle vacanze. Beh, guarda Danilo, io mi ricordo una vacanza massacro, con le tipiche vacanze massacro anni 70 che si faceva, che ne so, con l'equivalente oggi di 20 euro a testa, si partiva e si girava l'Europa. Un anno andammo con una 125 del papà di uno dei miei compagni di liceo, capito? 125 verde. Beh, ci girammo l'Europa, veramente, e dormivamo anche dentro la macchina, perché la maggior parte delle volte non avevamo manco i soldi per andare nel camping. E si comportò benissimo, mi ricordo. Sì, sì. Fu perfetta. Io guarda, io nel 91 andammo in 5 a fare un giro in Scozia con una Ritmo, ecco, che è un'altra automobile incredibile, ovviamente l'abbiamo fusa, però l'abbiamo aggiustata, insomma comunque erano incidenti di percorso, potevano capitare. Io ricordo delle sorelle ricche di Perugia che avevano una pompa di benzina con annesso bar e erano ambitissime, solo che si volevano sposare, quindi tutte tenevano la distanza, che avevano la Ritmo Cabriolet, che allora era l'equivalente, non so di quale automobile contemporanea, della Mini Cabriolet di oggi, e ci uscirono queste due scucchione soltanto con questa Ritmo Cabriolet alla ricerca di probabili mariti, ma nessuno aveva il coraggio di salire dentro. Piero, pronto? Buongiorno, sì, eccomi. Sì. Posso parlare? Ne hai facoltà. Io ho chiamato perché quando sento parlare di auto d'epoca io sono un appassionatissimo. Tra l'altro sono il responsabile del Fiat 500 Club Italia, che sicuramente lei conoscerà. E in più, certo. E in più noi abbiamo 21.000 iscritti come club in tutta Italia e abbiamo i fiduciari in tutto il mondo. Noi facciamo dei raduni l'anno in tutta Italia e il nostro club è parte da Garlanda. Io personalmente ho tre Fiat 500. Sì, ma aspetti Piero, lei parla di una fetta di persone che lo fanno per passione, per culto di automobili, ma lei non ha osservato che ultimamente c'è un po' un tradimento dell'appassionato di auto antica? La Case History, il nostro collega professor Chiappini, che ha comprato una 127, prova un profondo schifo dentro di sé per questo, ma lo fa perché per necessità, va in giro con una 127 Bordeaux. Mi perdoni dottor Nicoletti, il discorso è esattamente l'opposto, forse per altre persone, per altri interessi, per altre situazioni amano prendere queste auto, chiamiamo d'epoca, perché si suddividono in due tipi. L'auto d'epoca è quella che prevede 20 anni di vetustà, mentre invece l'auto storica è quella che ne prevede 30. Tutte e due sono assoggettate alla legge Berselli e tutte e due hanno la possibilità di avere un importo ridotto per quanto riguarda il bonus. Però lei mi conforti in una cosa. Il concetto di auto d'epoca, secondo me, dovrebbe essere ammantato di un oggettivo riconoscimento di valore storico estetico. La 500 lo ha, l'auto che per prima ha meccanizzato la gioventù italiana, non so adesso, poi è carina, andrebbe messa nei musei di arte contemporanea, ma non certo la Duna, la 127, l'850, non si è un po' allargato il concetto? Sono d'accordo con lei, infatti la 500, noi abbiamo un museo a Garlanda del Fiat 500 Club, dove sono esposte le più caratteristiche 500 che sono state costruite dal 57 in poi, e le dirò di più, molte volte siamo chiamati a fare delle rappresentazioni con le 500. Ma quindi lei è d'accordo che sarebbe il caso di lanciare una sorta di crociata per dire che le auto d'epoca siano le auto che hanno un valore storico, sentimentale, romantico. La Duna può essere auto d'epoca soltanto perché su di lei giravano leggende metropolitane, ci fosse un singolare incrocio fra spinta erogeno, carburatore e non so che altro che rappresentava il triangolo delle Bermude. Cioè, dicevano che aveva una macchina che in sé aveva una sorta di fisiologica sfiga nella sua costruzione, quindi la Duna in sé aveva questo leggendario alone, vale per quello, ma la N su Prince è solo nei nostri ricordi come macchina orribile. Si fermi un attimo però, Susi, una donna, finalmente. Chiamate voi donne che guidate catorci. Sì, Susi. No, è bellissima. È una macchina fantastica. Che macchina ha lei? No, io veramente è parcheggiata da 3 anni. Ho dovuto lasciarla perché avevo necessità di avere una macchina un po' più... E che macchina era? Non l'ho ancora detto. Era una Saab, magnifica Saab 900 con il pianto GPL. Ma orrenda la Saab. No, ma è magnifica. In effetti, quando l'ho comperata, me l'avevano proposta. Molte donne poi usavano la Saab, non so perché, era una macchina femminile. Sì, bellissima. E appunto mi avevano detto, prendi questa Saab, guarda, c'è un'occasione. Quella volta l'avevo comprata con 6 milioni di lire. E andava ad GPL, che era quello che io cercavo in quel momento. Ma era la Turbo, la Saab Turbo? Una Turbo, ah beh, certo. 16 valvole, una macchina che aveva delle pretese sportiveggianti. Sì, il bombolone sta dietro, ma dietro ci stava anche una bicicletta e tutto quello che... Oltre al bombolone, certo. Esatto, ed è magnifica. Solo che ultimamente avevo dovuto ordinare un pezzo di ricambio negli Stati Uniti. E non lo fanno più? Perché in Europa non si trovava il rubinetto dell'acqua che si era mi aveva lasciato per strada. C'era un impianto idrico con rubinetto la Saab. Sì, la Saab, un impianto, cioè proprio il rubinetto dell'acqua l'ho ordinato negli Stati Uniti, l'ho pagato anche pochissimo. Ma in un negozio di rubinetti non poteva adattarne uno da bidet, non lo so. No. Nicoletti, lei è straordinario, la ringrazio molto. È commossa, la voce sì, rotta dal pianto. Sono commossa, non può parlare oltre della sua Saab perché lei è... No, davvero. Ma lei questa l'aveva da ragazza, da signorina questa macchina? No, ce l'avevo da 10 anni però. Da 10 anni e dal 2000. Quando ho incominciato a avere... Ma adesso la puoi immatricolare come auto d'epoca però? Finché voglio. Solo che ho avuto delle difficoltà economiche di altra natura, anche un po' di salute, tutto quanto. Quindi non si sente in grado di mettersi alla guida di una macchina così rischiosa? No. Ha perso lucidità? È molto più in gamba dell'attuale che ho, sicuramente. Anche se questa qua... Si continua a lasciarla però parcheggiata ferma da anni, deteriora. No, ma guardi, tutte le notti, tutte le sere io mi propongo... Ma lei deve fare come gli Umarell, lo sai che fanno gli Umarell? Scendono, salgono dentro la 127, la tengono accesa 10 minuti, inquinano tutto intorno e poi... No, che inquinano, io con il GPL, guardi... Sai che puzza, sta ferma quando riparte, è una cosa terribile. Va bene, Susi, fermiamoci, i consigli abbiamo dati. Francesco. Buongiorno sì. Gianluca, guarda, le tue parole purtroppo per me sono una pugnalata. Sono ferite, sono lo so, ogni tanto... Sono un reale appassionato di vecchie auto. Fa male più a me che a te, 80. Pensa, però devo dirle queste cose. Lo so, però vedi, io sono un appassionato di vetture anni 80. A me piace la mia vecchia Ford Scorpio, che era di mio padre, è un ricordo di giovinezza. Non capisco perché chi ricorda i Beatles e la 500 ha diritto di storicità. No, hai ragione. Chi ricorda la vecchia Ford Scorpio o la Duna? C'è del razzismo su questo. Ma sì, diciamo. Ma io sulla Duna feci in tempi non sospetti decine di puntate per riscattare questa sorta di onta, diciamo, che la Duna portasse sfiga, che non era affatto vero. Però fermati un attimo, Francesco, diamo le informazioni della borsa che impellono, poi continua a parlare e ridiamo giusta dignità e esistenza a un frammento dimenticato della storia automobilistica che è la Ford Scorpio. Melog, la realtà condivisa. Questo, signori, lo giuro, è un modello esclusivo dell'Opel Ascona fatto su misura per uno sceicco. Sì, notate gli straordinari particolari, il comfort, lo giuro, eccellente. E per i viaggi in Occidente offriamo anche la raffinata Ascona di serie. Mi scusi su Twitter, Ruggero, mio nonno aveva una Simca color rame, coprisedili e palline di legno a pompetta sul cruscotto per detergere i vetri. Poi si arrabbia un altro ascoltatore perché ho detto che la Saab 900 è un'auto da donna, era un'auto di concezione avanzatissima fatta da una casa aeronautica. Poi mi chiedono di ricordare la mitica AMI 8, trovo i bigliettini, ho scritto se la voglio vendere. Poi nell'86 mio padre, vedendo una Duna in un autosalone, ebbe il coraggio di dire che era bella, persino il concessionario guardò stranito. Mio zio una 131 Super Mirafiori tutto originale del 76 con pneumatici originali montati, azzurro carta da zucchero, un vero gioiello. Una Maserati biturbo dell'83, vabbè, era una bella macchina. La Duna, Nicoletti, anche l'Arna, l'Alfa Romeo Nissan, terribile. Nicoletti, ha dimenticato la vecchia Mini, il vecchio maggiolone, due macchine con storie diverse. Ho avuto una Mini, si era sfondato il pavimento, come si chiama, e quando uno stava attento che appoggiava il piede troppo forte per dare gas, il piede toccava terra e si marciva subito, quella fatta in Italia naturalmente. Poi l'Arna, una Fiat 130, mio padre ha avuto una Topolino, Fiat 1100, una l'ha guidata anche lui, aveva il cambio anche questa allo sterzo, faceva ridere. Grande 125, non si ride della Saab, i sabbisti si sono offesi. Anche quando passavano a Prince Verde ci si toccava i maroni perché portava sfiga. La Fiat Ritmo Cabrio, modello palinuro, ce l'aveva anche Obama, non lo sapevo. Poi indimenticabile la 131 Super Mirafiori guidata da Mirabella con Truisa a bordo in Ricomincio da 3. Poi un altro film russo di Mikhalkov, Autostop, con la Fiat Tempra come protagonista. Allora, mi ero interrotto con Francesco, lo riprendiamo velocemente. Sì, Gianluca, grazie. Beh, io perché ricordo gli anni Ottanta, le automobili con impianti stereo ipertrofici, i paninari, i primi impianti ABS per frenare, oppure i primi anche computer di bordo, che erano gli antenati degli attuali sistemi. Senti, lo stereo sanitari. 8 con le cassette di Fausto Papetti faccia parte del pacchetto. Ma certo, ma anche i durante... Lo ricordiamo, erano quelle cassette, diciamo, grosse quanto un mattone che andavano a ciclo certo, continuo. Però, era l'unica arma di dissoluzione certo, della resistenza che si aveva in macchina. C'erano già anche i primi CD con i Power Station o i Duran Duran. Vabbè, ma sei troppo moderno, qua ancora noi, non esisteva certo, il CD. Il CD inizia a inizio anni Ottanta, noi andiamo prima, andiamo. Prima o poi anche noi moderni, per così dire, avremo diritto al nostro piccolo modello. Al massimo, guardi, tollero al massimo l'autoradio estraibile che si portava con un borsello sotto braccio. Il frontalino e si portava via. Frontalino dopo, prima c'era proprio tutta l'autoradio, era un mattone con un borsello che si portava sotto braccio. Ma questo segna uno spartiacque. È vero che sono troppo vicino alla modernità, però sì. Gianluca, volevo anche dismagare, se me lo concedi, da semplice appassionato, con tutto il rispetto, volevo dismagare coloro che credono di poter usare o una vecchia auto degli anni 70 o degli anni 80 come se fosse un'auto di tutti i giorni. È una furbata, non si può, certo. È una furbata, ma oltre che non si può, la manutenzione di queste auto è più complessa di quelle delle auto odierne. Basta citare i numerosissimi punti di ingrassaggio che hanno le Mini, i maggioloni, i Prince, oppure la delicatezza di certi... È vero, c'avevo la siringa per il grasso, glielo mettevo io, mi ricordo. È vero, mi hai dato un flash. Capisci? Non è così semplice usare una vecchia auto anche degli anni... Guarda, adesso ce lo dice un esperto, fermo lì. Gianni Lisandro, buongiorno. Buongiorno. Allora, Gianni Lisandro è commissario tecnico del Circolo Pontino della Manovella, addetto al controllo e alla certificazione dell'auto d'epoca. Lei sta certificando in questo momento un'auto d'epoca? Sì, la sto certificando un Mercedes del 92. E niente, viene visto. Di che colore è? È colore grigio canna di fucile. Ah, ecco, sì. Erano quelli tutti squadrati praticamente. Era sì, il Mercedes da piazzista in quegli anni, si usava così, ecco. Beh sì, presso a poco. Ci mettevano gli aspirapolvere dietro, queste cose qua. Non era una macchina usata di lusso, era una macchina che andava bene, la facevano in Germania, soprattutto andava a gasolio e chi viaggiava tanto se la portava. Era un bel bagagliaio. Ecco, quali sono le caratteristiche, però, per dire che è un'auto d'epoca? Sennò qui allora, ci stiamo a prendere in giro. Intanto bisogna fare due grossi distinguo. La macchina d'epoca è una macchina prettamente museale. Praticamente sono quelli da esposizione che stanno nei musei. Una Topolino, ecco sì. Anche se non camminano, quella è una vera macchina d'epoca. E poi ci sta la macchina di interesse storico, che per l'ASI può essere iscritta a soli 20 anni. Quelle sono macchine di interesse storico. E a soli 20 anni, se sono iscritte ASI, godono dei vantaggi di esenzione dalla tassa di circolazione, dal cosiddetto bollo, e con delle polizze di circolazione assicurative agevolate, vi sono dei prezzi molto bassi. Poi d'accordo lei, Gianni Lisandro, che quello che diceva il nostro ascoltatore appassionato, che un'auto comunque d'epoca non può essere usata come auto di tutti i giorni. Non è vero. Opinioni... è un'altra diceria che circola, ma è un feticismo. Sì, può essere usata dove, come, quando uno... Quindi ha ragione il professor Chiappini, che usa la 127 Bordeaux come auto sua di famiglia. Appunto, funziona bene, è nuova praticamente. Può usarla regolarmente, logicamente la circolazione in città viene, a seconda delle norme delle città, perché diciamo che quando ci sono restrizioni di traffico per l'inquinamento, certe città hanno fatto delle deroghe per queste macchine iscritte ASI, certe come Roma non le fanno, quindi non può circolare la macchina nei centri storici. L'unica differenza è quella. Sì, abbiamo sentito il direttore dell'ACI di Roma, ci ha detto quali sono le restrizioni per Roma. Sì, aspettiamo un attimo, Aurelio, velocemente. Sì, salve. Sì. Io avevo un Renault 5 GT Turbo dell'89. Una grande macchina. Sì, 120 cavalli, 1400 era. Ti divertivi con quella macchina. L'avevo anche sbassata, come si dice, ribassata. Sì, l'avevo ribassata, dopo c'era scarico diretto e il filtro KN per fare un po' più. Sentivi bene. Ma perché si abbassano le macchine? Perché avevano più tenuta di strada. Delle 500 abbassate toccavano terra praticamente. Ah, era un po' più per estetica, secondo me. Sì, era una cosa un po' coatta, però, sì, di quei tempi. Sì. Qualcuno addirittura rovesciava i cerchioni del 500 mettendo le ruote all'esterno per farla sembrare più sportiva. Gli mettevi distanziali che allargavi la ruota. Sì, piaceva anche tenere, diciamo, il cofano del motore sollevato con un ferretto per fare prendere aria questa forza di motore sportivo. O se no, fare le prese d'aria. Le prese d'aria. Un po' i musetti, quelli tipo dal Delta. E poi andavano il marmittono a fare un sacco di casino, quello era il senso. Sì. Danilo Masotti, riprendiamo un attimo con te. Tu devi darmi però quelle che una volta, su quali abbiamo noi ironizzato, considerandole delle abitudini vetuste, quasi delle manie da Umarell. Ma la manutenzione dell'auto d'epoca, oggi non esiste maestro più eccelso che l'Umarell. Dimmi com'è l'Umarell a una 127 che in 30 anni sembra nuova. Come si comporta? Allora, il vero Umarell, se ha un'automobile qualsiasi marca, avete detto, cioè vanno bene tutte quante, nel 2013 c'ha tipo 3.000 chilometri, 4.000 chilometri. Quindi si usa poco, è la prima regola. La usa poco, quindi la manutenzione... Cioè, però l'accende tutti i giorni per far girare il motore. L'accende tutti i giorni, la lava nei fine settimana e a meno che non le poche volte che l'ha utilizzata non sia stata incidentata, poi raramente l'Umarell la tiene in strada, ce l'ha in un garage, oppure se la tiene in strada nei periodi invernali la copre. Ah certo, usa la protezione, periodi. Certo. Sì. E poi... ha una forma di sesso protetto con la sua automobile, tanto la ama. Sì, e poi... segni di usura, ecco, di solito sono dati dallo spolverino, perché a furia di spolverarla le macchine vengono rigate. Sì, però poi usa dei polish antichi, usa dei vecchi prodotti, usa magari quello per pulire l'argenteria, non ha molta conoscenza della tecnologia di pulizia dell'automobile. Melog, la realtà condivisa. Ho 800 24 00 24, stiamo parlando delle auto d'epoca, stiamo parlando dell'escamotage di cercare il risparmio prendendo un'auto che ha più di 20 anni, matricolarla come auto d'epoca e risparmiare su tassa di circolazione e su assicurazione. Però abbiamo al telefono Gianni Lisandro, che ricordo commissario tecnico del circolo Pontino della Manovella, addetto al controllo e alla certificazione delle auto d'epoca. Allora Lisandro, diciamo le caratteristiche che deve avere un'auto per essere considerata tale. Le Porto hanno una 127, che è quello che abbiamo preso come modello esemplificativo. Come fa lei a certificarne lo status di auto d'epoca? È semplice, diciamo, il regolamento parla di aspetto decoroso, quindi non deve essere neanche, diciamo, per l'iscrizione una macchina praticamente come nuova, ma deve essere decorosa, questo è quello che dice il regolamento. Quindi può essere anche ammaccata, diciamo. No, ecco, decoroso significa sedili integri, non nuovi, naturalmente, che non siano sfilacciati, strappati, eccetera. Tutto originale, nel senso i tappetini, non deve avere botte, non deve avere ruggine, scoloriture, deve essere decorosa, deve essere, diciamo, bella alla vista. Originali poi, tutti gli accessori, naturalmente. Sterzo, guarda, cambio, manovelle alzavetri, deve essere tutto originale. Diciamo che piccole modifiche, diciamo, possono essere accessori dell'epoca che sono storicizzati, tipo allora andavano di moda non a 127 ma altre macchine, i salvacoppa sotto, diciamo i deflettori per l'aria dei finestrini. C'era anche il pomello del cambio della 500 a forma di teschio, i più arditi mettevano il teschio sul pomello della 500. Quelle sono piccole cose che, però c'era, me lo ricordo, che possono essere accettate solo per l'iscrizione, però perché sono due gradi di iscrizione, quelle che danno tutti i diritti, i vantaggi dell'esenzione fiscale, delle polizze agevolate, è l'iscrizione, il primo grado di iscrizione. Poi c'è un grado superiore di certificazione che è l'omologazione targa oro, e allora quello viene, la macchina viene sottoposta, invece che solo al commissario tecnico di club, viene sottoposta a una commissione, e qui allora bisogna che la macchina sia perfettamente... deve frenare come minimo, perché sennò diventa un pericolo pubblico, deve essere, anche se non avrà i freni a disco come le auto o l'ABS, comunque è una macchina in grado di frenare. Quindi... logico che la macchina deve essere sottoposta alla revisione regolare, le revisioni biennali che si fanno per il controllo della circolazione, quella già dà le caratteristiche che la macchina possa circolare o meno. Quindi, no, quindi non si scherza questo. Sentiamo un attimo Federico. Federico. Sì, buongiorno. Sì. Volevo portare il mio contributo perché sento che comunque molte persone chiamano e ognuno poi ha la sua, il suo punto di vista. Lei non si rende conto, gli SMS mi stanno arrivando di citazioni di possessori di auto d'epoca che nemmeno ricordavo. Opel Manta, number one. Opel Manta è impossibile non ricordarla. Sì. Gianluca, sì, sì, ho capito, ma non, me l'ero dimenticato, me l'avevo rimossa proprio, capito? E una cosa che secondo me poi rispecchia la verità è il fatto che al giorno d'oggi moltissimi appassionati di vetture d'epoca e possessori di vetture d'epoca storiche che abbiano 30-40 anni si trovano in difficoltà, se non sono in grado di curare, diciamo, loro stessi la manutenzione, si trovano in difficoltà nel trovare persone che siano ancora in grado di cambiare le puntine dello spintarogeno. Beh, certo, un meccanico che oggi ha mediamente 30 anni, secondo me avrebbe difficoltà a metter mano in un motore di una 500. Un meccanico che oggi ha mediamente 30 anni, io ne ho 34, Gianluca, quindi sono appassionato di vetture. Beh, lei è appassionato, ma normalmente è un po' difficile. Mediamente difficile, perché al giorno d'oggi basta attaccare un computer sulla presa diagnosi, il computer ti dice che sensore devi cambiare, e il lavoro, il grosso, l'80-90% del lavoro del meccanico al giorno d'oggi si limita a cambiare i pezzi che il computer gli dice di cambiare. Gli appassionati, molti appassionati e possessori di vetture storiche al giorno d'oggi non sono in grado di effettuare questi tipi di interventi, ma anche banali, non dico una guarnizione di testa, ma il cambiare le puntine dello sfinterogeno per molti. Quello si faceva a casa, si faceva da soli quello. Si deve fare da soli questo. Uno se le portava dietro perché sapeva che si consumavano facilmente. Sì, ma è un intervento che si può realizzare anche in strada volendo, è un cacciavite e possiamo farlo. Quindi ci sono dei problemi di manutenzione, questo è interessante. Silvano, sentiamo Silvano però, così sentiamo qualcun altro. Silvano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Nel 94 ho conosciuto mia moglie giapponese, l'attuale moglie giapponese, sì. E io possedevo una Lancia Gamma Coupé 2000, sì. Azzurro metallizzata, e le prime cose che ha detto qua in Italia, girando in Italia, no, mi diceva che baracche di macchine che ci sono, no, ma anche questa che avevo io, la Lancia Gamma Coupé che ce l'avevo da un pochettino d'anni, dall'81, mi diceva, no, in Giappone non esistono macchine vecchie che girano così come in Italia, è una cosa assurda, là girano già col cambio automatico, con l'aria condizionata, con tutti gli accessori. E lei sentì molto in colpa, allora sentì molto in colpa verso sua moglie. Sì, tanto che mi sono convinto a un certo punto, era una bella macchina tenuta bene, l'ho regalata ad un conoscente che aveva una macchina uguale che poi avrebbe usato i pezzi di per cannibalizzare, sì. Un'altra usanza che dimenticavo, e molti che avevano spazio intorno a casa, teneva un catorcio simile per la cannibalizzazione. Lentamente c'era la spogliazione del cadavere della macchina che donava organi alla macchina che in realtà aveva diritto alla sopravvivenza. Era molto triste questo, fa parte della legge della giungla delle automobili. A domani.